cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa e dalla regia Michele. Ciao Michele, in collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa, ciao Michele, buonasera cari amici radioascoltatori. Dunque Alessandra, iniziamo una nuova stagione di Giro di Boa dopo la pausa estiva. Sì, Annalisa, una nuova stagione di Giro di Boa, la settima stagione di Giro di Boa, per cui Giro di Boa sta diventando veramente un programma molto longevo a Radio Alma. Figurati che abbiamo superato le 130 puntate in totale. Wow, 130 puntate, un grande risultato, siamo contenti quindi di ripartire, settima stagione. Dunque questa sera è sempre un Giro di Boa al passo con l'attualità, riprendiamo un tema che abbiamo trattato più volte prima della pausa estiva, riparliamo di Libia, sette mesi dopo l'inizio della guerra, facciamo il punto della situazione nel paese, qual è la situazione sul terreno. Quali sono i piani del Consiglio nazionale di transizione? Perché il ruolo dell'Italia nell'operazione in Libia non sembra essere riconosciuto dai nostri alleati? Ecco, ne parliamo questa sera con il nostro ospite che è in collegamento dall'Italia. Sì, esatto, Annalisa, il nostro ospite è già in collegamento, si tratta di un amico di Giro di Boa in quanto è già stato nostro ospite diverse volte, si tratta di Gianandrea Gaiani. Gianandrea, mi senti? Sì, molto bene, buonasera a voi e anche agli ascoltatori. Buonasera, grazie mille per aver accettato ancora una volta di intervenire nella nostra trasmissione. Gianandrea, come i nostri amici e gli ascoltatori si ricorderanno, ha seguito tutte le missioni italiane degli ultimi 20 anni, dirige Analisi Difesa e collabora con i quotidiani Il Sole 24 Ore, Il Foglio e Libero, oltre ad essere opinionista del giornale Radio Rai e Radio Capital. Ha scritto, fra le altre cose, un libro, Iraq, Afghanistan, guerra di pace italiane. Dunque Gianandrea, partiamo subito con una domanda. Il 21 agosto Tripoli è caduta, 6 mesi dopo lo scoppio della rivolta nelle piazze di Bengasi, che era dello scorso febbraio. Puoi ripercorrere magari brevemente le tappe che hanno portato a questa caduta di Tripoli e come siamo arrivati? Beh, ricordiamo che la rivolta scoppia in Cirenaica, nella regione tradizionalmente ribelle al potere centrale, la storia della Libia è sempre stato così, ma è una rivolta che viene guidata da esponenti del regime di Gheddafi che si rivoltano al Rais. È una rivolta che ottiene subito un supporto ufficiale, plateale, di Francia e Gran Bretagna e degli Stati Uniti. L'inizio della repressione della rivolta di Gheddafi muove la comunità internazionale e viene interpretata questa rivolta libica come la prosecuzione naturale delle primavere arabe che già si erano manifestate con rivolte di piazza in Tunisia e in Egitto. Iniziano le operazioni militari a metà marzo, nel momento in cui la risoluzione dell'ONU approva una risoluzione caldeggiata dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Gran Bretagna, che chiedevano un intervento internazionale militare per proteggere la popolazione dalle rappresaglie delle forze lealiste, una definizione un po' forzata, perché ovviamente il paese non era tutto in rivolta, ma buona parte della Libia era dalla parte di Gheddafi. E poi è cominciata la fase militare, quella vera e propria, che ha visto un forte intervento aereo e navale alleato e che ha visto alcuni paesi protagonisti nel lanciare ordigni, nel bombardare le forze di Gheddafi, altri si sono intervenuti in questa fase bellica successivamente, come l'Italia, che all'inizio non partecipava ai combattimenti veri e propri. Non c'è stato nessun intervento di forze terrestri in massa al fianco dei ribelli, ma però c'è stato un intervento molto importante di qualità di forze speciali, contractors, consiglieri militari italiani, francesi, britannici, anche di alcuni paesi arabi, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, la Giordania, che hanno aiutato militarmente i ribelli, soprattutto nella fase in cui dovevano rafforzarsi, mentre gli aerei della NATO impedivano alle truppe lealiste di Gheddafi di lanciare contrattacchi efficaci, venivano stroncati questi contrattacchi dalle incursioni aeree. La battaglia più importante è quella di Misurata, la città ribelle assediata dalle truppe lealiste, dove le forze aeree alleate hanno dato un contributo importante per permettere di rompere l'assedio, e poi le rivolte anche nelle zone a sud di Tripoli, che hanno portato a circondare la capitale. La caduta di Tripoli, che oggi possiamo interpretare in realtà non come una città che è crollata sotto l'attacco dei ribelli, ma come una città che alla fine stesso Gheddafi e i suoi sostenitori hanno deciso di abbandonare per ritirarsi nelle roccaforti del sud del deserto. Beh, la caduta di Tripoli ha messo in luce anche le prime fratture interne al movimento dei ribelli, composto da una quarantina di entità militari che si richiamano alle diverse tribù, a diverse ideologie, inclusi i gruppi estremisti islamici, che sono forse quelli militarmente più capaci tra le file dei ribelli. E la situazione militare oggi non si è ancora risolta. Sirte, la città natale di Gheddafi, ultima sua roccaforte sul mare, resiste ancora, almeno parzialmente, e Bani Walid è ancora nelle sue mani, e ci sono altre roccaforti nel sud, dove sembra che Gheddafi abbia reclutato molte migliaia di Tuareg pronti a non solo a difendere il Rais, ma anche a continuare la guerra con operazioni di guerriglia. Quindi potremmo assistere a una guerra che è nata con un'insurrezione contro Gheddafi e che proseguirà con le forze di Gheddafi a giocare il ruolo degli insorti. Gian Andrea, hai menzionato il ruolo della NATO che recentemente ha deciso di prolungare la missione Unified Protector per altri 3 mesi. La NATO, che ha portato avanti 23.500 missioni aeree, delle quali 9.000 d'attacco. Tu hai appena un po' chiarito la situazione sul terreno, ma perché questo prolungamento della missione? Cosa ci si può aspettare dalla NATO nei prossimi 3 mesi? E poi ti vorrei chiedere, come diciamo 7 mesi dopo l'inizio delle operazioni militari, che bilancio si può trarre del ruolo della NATO in questo conflitto? Ma diciamo che la NATO ha svolto un ruolo indispensabile perché ha messo in campo le sue strutture di comando e controllo, ma sul piano militare la partecipazione dei singoli paesi a questa guerra è stata smacco per la NATO, perché se guardiamo bene su 28 paesi membri, solo 8 hanno svolto un ruolo militare. E di questi la maggior parte hanno contribuito a questa guerra aerea con forze aeree limitate, 4-6 velivoli. La gran parte dello sforzo militare è stato condotto sul piano stretto del combattimento degli americani solo nella fase iniziale, con un potente bombardamento dal mare con missili da crociera. Ma la parte invece di combattimento aereo, di intervento aereo, di strike, di attacchi al suolo, è stata lasciata dopo il rapido ritiro degli americani, o comunque dopo l'assunzione di un profilo più basso da parte degli americani, da 2 paesi, Gran Bretagna e Francia, ma anche dall'Italia, che invece, al di là del fatto che il suo impegno ha avuto poca visibilità e ha poca visibilità, ha svolto e sta svolgendo un ruolo molto importante anche nelle operazioni di combattimento. Cosa dire invece sul piano del militare, dello sviluppo della guerra? Beh, la guerra è durata molto di più di quello che ci si aspettava. La NATO e l'Occidente speravano tutti, forse convinti, io credo che Francia e Gran Bretagna non fossero all'oscuro della rivolta che stava covando in Cirenaica, che anzi credo che l'abbiano sostenuta. C'è uno studio britannico di un centro di ricerca che dimostra come le forze speciali inglesi fossero già presenti in Cirenaica una settimana dopo l'inizio della rivolta, tempi un po' troppo stretti anche per le mitiche special forces britanniche, per non indurci a pensare che forse Londra e Parigi hanno soffiato sul fuoco per scatenare questa rivolta, e tutti si aspettavano una caduta molto rapida del regime. Così non è stato, anche perché lo sforzo militare della NATO non è stato poi così formidabile, e del resto perché le truppe di Gheddafi hanno smesso molto in fretta di giocare la guerra, di giocare un ruolo convenzionale nella guerra, per cominciare anche loro a nascondere i loro mezzi nelle città, a muovere i loro soldati su pick-up e mezzi civili, e quindi a diventare molto meno bersagli molto meno facili per le forze aeree della NATO, e la NATO aveva e ha tuttora il limite politico di non voler impiegare sul terreno truppe terrestri che, nonostante il rischio di perdite, sarebbero state risolutive in tempi più stretti. Lo citavi prima, durante la risposta alla precedente domanda, il colonnello. Non si sa dov'è e continua ad essere avvolto nel mistero la sua sorte. Secondo te è veramente coperto dai Tuareg, e quali le implicazioni dell'eventuale processo di stabilizzazione del paese? qualora non venisse catturato? Ma io credo che Gheddafi stia giocando in questo momento la partita seguendo le orme di un suo illustre predecessore, se vogliamo, se mi passi questa battuta, che è Saddam Hussein. Quando cadde Baghdad nell'aprile del 2003, si diede alla macchia, organizzò la guerriglia, che poi ha dato filo da torcere e un po' continua anche a darlo oggi al nuovo Iraq, organizzò la guerriglia e per diversi mesi rimase nascosto a guidare appunto i suoi fedelissimi, finché non venne poi catturato e consegnato alle autorità irachene che lo impiccarono. Noi possiamo aspettarci che Gheddafi cerchi di fare la stessa cosa, quindi di raccogliere, anche usando il denaro di cui dispone in maniera abbondante, di continuare a reclutare mercenari, ma soprattutto quei Tuareg che nel sud della Libia hanno sempre costituito una parte importante delle sue milizie, per passare da una guerra a una guerra diversa, quella di disturbo. Può contare su un fattore destabilizzante a suo vantaggio, nel senso che i ribelli, uniti nel tentativo, nella volontà di abbattere il suo regime, non sono poi tanto uniti oggi sull'idea di cosa fare della nuova Libia. Non ci dimentichiamo che ci sono tantissime tribù e tra queste molte hanno sostenuto Gheddafi e comunque non si fidano delle altre tribù che hanno guidato la rivolta. Non a caso, ormai è passato molto tempo dalla caduta di Tripoli e il CNT ha chiesto più volte alle diverse milizie di lasciare la capitale e queste continuano ad arroccarsi armate fino ai denti, ognuna nel quartiere che ha occupato, quindi pronte anche a controllare manu militari, diciamo, uno spicchio, una fetta della capitale. E questi sono dei brutti segnali per una stabilizzazione di un paese che, tra l'altro, come dice più volte, ha detto più volte il CNT, vorrebbe intanto costituire un governo rappresentativo di tutte le forze che hanno partecipato all'insurrezione, per poi arrivare entro 18-20 mesi a libere elezioni, in un paese che di democrazia non ne ha mai avuta, perché è passato dalla monarchia al regime di Gheddafi. Quindi ci sono fattori di stabilizzazione, di instabilità già insiti nella struttura stessa del movimento di rivolta, sui quali Gheddafi potrà, se riuscirà a restare alla macchia, a guidare la rivolta, potrà far leva per scardinare il complesso sistema tribale, politico, che il CNT cerca faticosamente di organizzare. Del resto l'Unione Africana, fin dall'inizio della guerra, chiedendo alla NATO di smetterla di bombardamenti, aveva lanciato un monito dicendo il rischio non è di far cadere il regime libico, ma facendo cadere il regime di Gheddafi, di trasformare la Libia in una Somalia. E credo che questo rischio resti tuttora un rischio serio. Gian Andrea, leggevo recentemente il tuo blog e tu hai scritto che 10 anni dopo l'11 settembre l'Occidente passò dalla guerra afghana contro il regime dei talebani a quella libica per deporre un regime laico e imporre la sharia islamica. Quindi, ritornando al discorso che avevamo iniziato prima sulle differenti componenti del Consiglio Nazionale di Transizione, hai parlato di una componente islamica presente nel CNT, ecco, ritieni che ci possano essere rischi di una deriva di questo tipo? Ma i rischi ci sono per diversi motivi. Il primo motivo è che ci sono diverse componenti islamiste o diciamo estremiste islamiche, una è quella dei Fratelli Musulmani, ma ce n'è un'altra molto più radicale, che è quella del gruppo militante islamico libico, movimento che Gheddafi ha combattuto e sconfitto alla fine degli anni 90 impiegando anche mercenari serbi, ed è un gruppo legato ad Al-Qaeda che negli anni successivi, nei primi anni 2000, mandò i suoi uomini migliori ad addestrarsi in Afghanistan, nei centri di addestramento di Al-Qaeda, e non ci dimentichiamo che la Libia è stato il paese che ha mandato il maggior numero nella classifica dei paesi che hanno fornito kamikaze, miliziani, uomini pronti alla guerriglia, alla guerra ad Al-Qaeda per combattere in Afghanistan e soprattutto in Iraq. La Libia è sempre stata al secondo posto dopo i sauditi, e quindi questo cosa significa? Che questi esponenti estremisti islamici sono anche degli ottimi combattenti, si sono addestrati, hanno combattuto gli americani, gli inglesi, gli italiani in Iraq per anni, ed è paradossale che dopo alcuni anni dopo, 10 anni dopo l'attacco a New York e a Washington, le bombe americane, le bombe della NATO, di quegli stessi paesi che erano presenti, che sono presenti in Afghanistan e che lo erano in parte anche in Iraq, abbiano, e questo io l'ho voluto evidenziare sul blog, nel mio blog su panorama.it, e abbiano contribuito a portare anche questi combattenti ex nemici a occupare Tripoli. Allora è paradossale aver cacciato i talebani da Kabul per poi portare la Sharia a Tripoli, perché al di là degli estremismi islamici, lo stesso CNT, quindi l'intero organismo di governo, chiamiamolo così, di amministrazione di tutti gli insorti, che comprende anche i gruppi laici, ex esponenti del regime di Gheddafi, hanno concordato, hanno stabilire che il futuro della Libia sarà una repubblica sicuramente indipendente, democratica, dove il voto sarà garantito a tutti democraticamente, ma dove la fonte principale del diritto sarà la Sharia. E allora questo chiaramente è un aspetto, credo, paradossale. Mi pare però che questo aspetto venga in parte sottovalutato. Non ci dimentichiamo che il comandante militare di Tripoli oggi è quel Belash che era stato prigioniero delle carceri segrete della CIA come esponente, come uomo vicino ad Al-Qaeda. Quindi insomma abbiamo un po' rovesciato i fronti dopo, in questi ultimi tempi. Io credo che nella fretta di mettere le mani sulla Libia e sul business libico, che non è solo petrolio e gas ma anche un grande business per la ricostruzione infrastrutturale di questo paese e per la ricostituzione delle forze armate di questo paese, che è un paese che oggi è completamente privo di capacità di difesa e quindi dovrà essere ora in questo momento difeso, protetto, domani riarmato perché possa farcela, con un business da decine di miliardi di dollari o di euro. Beh, ecco, credo che per mettere le mani su questa torta alcuni paesi occidentali che hanno voluto questa guerra, e soprattutto penso alla Gran Bretagna e alla Francia, siano pronti o ritengano di essere pronti anche a scendere a compromessi con quelli che, con un nemico che in Afghanistan viene ancora combattuto, ad esempio. Gianandrea, il primo ministro del Regno Unito e il presidente francese sono stati ricevuti alcune settimane fa a Bengasi come i vincitori, o comunque come quelli che hanno portato la Libia alla vittoria, cioè i ribelli alla vittoria. In frangente non c'era nessuna autorità italiana di spicco. Tu prima dicevi che l'Italia ha mantenuto un profilo basso durante le operazioni militari, o comunque questo è quello che è apparso sulla stampa. Secondo te, visto comunque i precedenti storici dell'Italia in Libia, non è giusto mantenere un profilo basso e dunque non essere riconosciuti come parte del gruppo leader, del gruppo dei vincitori con Gran Bretagna e Francia, visto che altrimenti molto probabilmente questa sarebbe stata utilizzata come un'arma dal colonnello? Ecco, guardate, gli italiani sono di ritorno, i colonialisti sono tornati. Beh, il colonnello ha usato un'altra arma nella sua propaganda, dicendo sono i colonialisti sono tornati, cercano di riprendere la Libia, ma si riferiva a britannici e francesi in questo caso. Io credo che l'Italia abbia inizialmente, tutti lo possiamo, ce lo ricordiamo, ha affrontato la questione Libia con grave imbarazzo. Avevamo un trattato d'amicizia con Gheddafi, con la Libia, che ci impediva di svolgere un ruolo militare e anche di fornire le basi a chiunque volesse attaccare la Libia, un trattato che impediva anche ai libici di fornire basi a chiunque volesse attaccare l'Italia. Abbiamo deciso, l'Italia ha deciso, per motivi forse di realismo politico, per non mettersi contro i principali alleati, partner della NATO e della UE, di mettere sotto i piedi questo trattato, quindi di fare un altro piccolo 8 settembre, mollare un alleato per fargli la guerra. Una decisione presa timidamente, nel senso che inizialmente i nostri aeroplani sorvegliavano solo lo spazio aereo libico, le nostre navi pattugliavano davanti alle coste libiche, ma non giocavano un ruolo di primo piano. Questo ha permesso ai nostri alleati e partner, ma io credo sia anche il caso di chiamarli competitor, rivali, perché Francia e Gran Bretagna hanno iniziato questa guerra con la chiaro intento di mettere le mani sulla torta libica, e la torta libica era una torta al 75-80% italiana, e quindi loro vogliono incassare il dividendo della vittoria facendo pagare questo prezzo all'Italia, e questo in termini di interessi energetici, di lavoro per le aziende, e in termini commerciali. Lo fanno in maniera spregiudicata, Francia e Gran Bretagna, e il nostro governo invece ha giocato la partita in maniera molto timida. Non ci dimentichiamo che Berlusconi aveva detto che i nostri aeroplani non bombardavano, non avrebbero mai bombardato la Libia, ma poi su forti pressioni americane nei giorni intorno a Pasqua l'Italia ha cambiato idea. Abbiamo cominciato anche noi a bombardare, lo abbiamo fatto bene, io ho potuto avere notizie da indiscrezioni, ma da fonti molto buone, che dicono che l'Italia ha lanciato circa 700 bombe e missili sulla Libia e abbiamo in questo momento un ruolo che è secondo solo quello della Gran Bretagna e complessivamente in tutta la guerra i nostri aeroplani hanno svolto un ruolo secondo solo a Francia e Gran Bretagna, quindi in termini di ore di volo, di missili tirati, lanciati, di termini bellici abbiamo svolto un ruolo che è quello di una potenza che in Europa è seconda appunto alla Francia e alla Gran Bretagna, ma se noi valutiamo anche il valore aggiunto del ruolo italiano, cioè l'Italia ha messo a disposizione fin dall'inizio le basi, senza le basi italiane questa guerra nessuno la poteva combattere, perché la Francia ha solo una portaerei, perché la Gran Bretagna non ne ha più, perché che il buon Cameron applica tagli brutali alla difesa e poi manda aerei meglio fare la guerra, ma senza le basi italiane non ce l'avrebbe fatta, e Obama, che invece ha le portaerei per fare queste guerre, non aveva politicamente la capacità di metterle in campo. Quindi l'Italia è stata risolutiva in questa guerra, non ce lo riconoscono, ovviamente perché hanno tutto l'interesse i nostri alleati e partner, ma anche i nostri rivali, a metterci in ombra, e questo ormai è evidente, le analisi che leggiamo su Le Monde, sul Times, oggi ne ho letto uno sul Times, il primo di settembre su Le Monde, non parlano del ruolo dell'Italia, parlano del ruolo del Belgio, che con tutto il rispetto ha messo in campo 4 aeroplani, che sono uno sforzo importante per il Belgio, ma non sono comparabili con i 16 aeroplani, le basi, le navi e la porta aerei che l'Italia ha messo in campo. E non è casuale che francesi, britannici e americani, Obama si ricordi di citare ad esempio la Norvegia che ha ritirato i suoi aeroplani dalla guerra più di un mese fa e non si ricordi dell'Italia quando le forze americane che combattono in Libia sono basate a Sigonella, cioè in Sicilia. Insomma, è chiaro che c'è una volontà di emarginare l'Italia ora che qua tutti pensano di poter cominciare a incassare i dividendi della vittoria, ora che c'è da sedersi al tavolo per spartirsi la torta, tutti vogliono emarginare l'Italia. L'Italia paga anche il prezzo dei suoi errori, per motivi di politica interna, perché il nostro governo non ha mai voluto, per motivi di stabilità, con i problemi fra PDL e Lega, dare spazio a anche solo consentire che venisse reso noto il lavoro che i nostri militari stavano facendo, oggi il mondo non se ne è accorto. Una censura incredibile ha impedito a noi giornalisti di sapere dove andavano a bombardare i nostri aeroplani, quali tipi di missioni svolgevano, che armi lanciavano, quante ne lanciavano, una censura indegna, lasciatemelo dire, di un paese democratico, civile, europeo, che poi alla fine si ritorce contro a chi questa censura la applica. E se il governo italiano ha vietato di fornire ai militari di fornire informazioni alla stampa e quindi all'opinione pubblica sul nostro ruolo, sul ruolo che i militari italiani hanno svolto in una guerra, giusto o sbagliata che sia, ma nella quale sono stati coinvolti, non possiamo poi dimenticarci, non possiamo poi meravigliarci se anche il resto del mondo non sa che cosa abbiamo fatto. E quindi alla fine l'Italia paga i suoi errori, i suoi tentennamenti, e anche le sue incertezze e questi errori in politica internazionale si pagano caro, quindi si pagano in commesse, in contratti, in influenza e in capacità di influire sugli eventi in un'area, il Mediterraneo, che è alle porte di casa nostra. Gian Andrea, purtroppo siamo in chiusura, ti dobbiamo salutare ancora una volta, noi ti ringraziamo per il tuo interessantissimo contributo alla trasmissione. E ti auguriamo buon lavoro e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. Volentieri, buona serata, arrivederci. Grazie mille anche da parte mia, buona serata e buon lavoro. Buona serata, a presto. Ciao, grazie ancora. Facciamo ora una pausa musicale, poi rientreremo in studio con il secondo tema di questa serata. Buonasera cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dunque abbiamo parlato di Libia nella prima parte della trasmissione, abbiamo fatto il punto della situazione sul terreno, abbiamo parlato del ruolo dell'Italia nel conflitto. Passiamo ora al secondo tema di questa puntata di Giro di Boa. Sì, la sento. Sì, buonasera Annalisa, già in collegamento abbiamo l'ospite per questa sera, dunque questa sera tratteremo come secondo tema la situazione economica. Ospite, parliamo di economia, come abbiamo già fatto diverse volte prima dell'estate, L'economia, la situazione italiana e quella della zona euro è in continua evoluzione. È di oggi, per esempio, il sì del Parlamento tedesco, risultato non del tutto scontato in partenza, al potenziamento del Fondo Europeo Salva Stati, votazione che deve avvenire in tutti gli stati dell'Eurozona, in base all'accordo raggiunto dal Consiglio Europeo del 21 luglio scorso. E ancora di oggi, poi, la pubblicazione sulla stampa italiana della missiva segreta, spedita 2 mesi fa dalla Banca Centrale Europea al governo italiano. Con il nostro ospite in collegamento questa sera cercheremo di capire quale governance economica per l'Eurozona uscirà da questa pesante crisi, che cosa cambierà in Europa e quali soprattutto sacrifici bisognerà fare per riprendere a crescere. Annalisa, vuoi presentarci l'ospite? Sì, l'ospite di questa sera è Marco Simoni, economista e politologo, insegna alla London School of Economics, è esperto di capitalismo comparato e relazioni industriali, editorialista per l'Unità. Come Alessandra ha già ricordato, Marco Simoni è stato nostro ospite lo scorso giugno. Abbiamo analizzato al tempo, se i nostri radioascoltatori come i nostri radioascoltatori ricordano, il reportage dell'Economist sull'Italia. E vorrei partire subito con una battuta un po' sull'Italia. Il presidente di Confindustria Marcegaglia sostiene che non ci sono alternative, che bisogna fare le riforme, anche le riforme che possono far male, come la riforma delle pensioni. E in Germania si va in pensione a 67 anni, stanno pensando di alzare l'età a 69, mentre in Italia si va ancora in pensione a 58. Una situazione difficile da capire per un tedesco, probabilmente, se gli si chiede di fare dei sacrifici per noi italiani. Ecco, una battuta quindi su questo e sul voto del Parlamento tedesco che ha ricordato Alessandra in apertura di trasmissione. Sì, diciamo, il voto del Parlamento tedesco ha segnato una presa di responsabilità importante, perché è un voto che è stato effettuato a larghissima maggioranza del Parlamento tedesco, 560 rotti voti a favore e un'ottantina di voti contro, quindi diciamo sostanzialmente un voto unito della Repubblica tedesca a favore di misure straordinarie che aiutino l'euro a rimanere coeso ed evitino il default della Grecia, che significa automaticamente un'uscita della Grecia dalla moneta unica con inimmaginabili conseguenze, nel senso che la Grecia è un mercato piccolo, il debito della Grecia è un debito relativamente piccolo, però il problema è l'effetto psicologico che questo potrebbe avere rispetto ad altri mercati molto più importanti come il nostro, e debiti pubblici avrebbero altri effetti. Questo voto della Grecia naturalmente pone una serie di domande all'Italia che non sono soltanto, non sono necessariamente incentrate sui cosiddetti sacrifici, perché lei ha fatto giustamente il paragone: in Grecia si va in pensione a 67, in Germania si va in pensione a 67 anni, in Italia l'età è ancora più bassa, fino a poco tempo fa era addirittura problematica pensare di alzarla fino a 65. Il numero che gli ha dato di 58 credo sia un numero un po' troppo basso. Diciamo che ci sono persone ancora che possono andare a pensione a 58. Quindi, diciamo, quando si parla di sacrifici bisogna sempre cercare di contestualizzare, perché se l'aumento dell'età pensionabile di un anno, cioè una persona che va in pensione a 64 vada in pensione a 65, sia un grande sacrificio, diciamo, su questo forse qualche discussione si può avere. Il problema non è tanto l'ammontare dei potenziali sacrifici, che ancora fino adesso sono, diciamo, da un punto di vista comparato, come lei giustamente ha fatto notare, abbastanza relativi, quanto il quadro politico in cui questi sacrifici si iscrivono. Mi sentite? Sì, sì. Nel senso in cui una cosa è chiedere sacrifici a una categoria in maniera arbitraria, per cui si chiede in maniera arbitraria soltanto ai pensionandi di rinunciare a quello che per loro oggi è l'aspettativa ragionevole, cioè di andare in pensione all'età in cui pensavano di andarci, e invece dir loro no, andrete in pensione tra 1 o 2 anni, però in maniera arbitraria, senza nessuna, come dire, disegno complessivo. Altra cosa sarebbe approvare o proporre una misura del genere in un quadro però complessivo, in cui una serie di riforme che non riguardano soltanto una categoria ma ne riguardano molte servono a rimettere l'Italia in un cammino di crescita, che è quello che, diciamo, che serve al nostro paese in questo momento. Un cammino di crescita che è stato menzionato dalla missiva segreta, che ormai non è più tale, immagino lei abbia letto sulla stampa italiana e forse anche internazionale questa lettera, che è stata il cui contenuto è stato ampiamente fantasticato ad inizio agosto, lettera che è stata scritta da Draghi e da Trichet al governo italiano. Che cosa pensa del contenuto della lettera, e soprattutto a livello di forma, è corretto ed accettabile che la Banca Centrale Europea invii delle istruzioni, mi viene da dire, per usare forse la parola diktat è un po' troppo, istruzioni di questo tipo a un governo della zona euro? E soprattutto, guardi, è la prima volta o più? Sono due cose che vanno, no, volevo sapere se era la prima volta che succedeva una cosa di questo tipo, oppure in questo periodo è già successo che la Banca Centrale Europea abbia dato dei suggerimenti ad altri governi, oltre a quello italiano. Guardi, io ritengo, frente, non lo so, non so se la Banca Centrale Europea ha mandato altre lettere segrete con tono e contenuti simili, questo lo ignoro francamente, ma non mi stupirei se fosse avvenuto. Diciamo, io su quelle tra due opinioni che sono, diciamo, opposte nella loro sostanza e che però convivono. Come italiano, e come cittadino italiano, elettore in Italia, eccetera, eccetera, io mi sono sentito umiliato da quella lettera. Cioè, quella lettera è un'umiliazione evidente per qualsiasi cittadino, perché in quella lettera una istituzione indipendente, che noi abbiamo contribuito a creare come indipendente con lo scopo di tenere costante l'inflazione, quello è lo scopo per il quale noi abbiamo contribuito a creare la Banca Centrale Europea, dotandola di ampissima autonomia, un'istituzione deputata a quello scopo scrive una lettera al governo nazionale, espressione democratica del paese, sostanzialmente dettandogli la politica economica. Questo, diciamo, è una plateale ingerenza, invasione di campo da parte della Banca Centrale Europea, che a qualsiasi democratico, a qualsiasi persona, diciamo, che abbia a cuore le prerogative della democrazia, che sono soprattutto le prerogative del popolo che si esprime tramite i parlamentari, offendono, diciamo, il principio stesso con il quale il governo deve prendere decisioni in nome e per conto del popolo che l'ha eletto. Allo stesso tempo, è assolutamente evidente che nella fase in cui quella lettera è stata scritta, il governo italiano doveva la sopravvivenza della stessa economia italiana e di conseguenza anche di anche altre economie continentali al fatto che lo spread tra i titoli del tesoro italiani e quello dei titoli tedeschi tornasse nei ranghi. Cosa significa? Significa che se lei o io o chiunque ha bisogno di un prestito, ed è una persona che offre ampie garanzie, quel prestito gli sarà dato a tassi di interesse bassi. Se viceversa è una persona a rischio di non ripagare quel debito, i tassi di interesse saranno molto più alti. Ecco, è arrivato ad un certo punto, noi siamo messi posti in una situazione, noi come Italia, che se la Banca Centrale Europea non avesse comprato i nostri titoli di Stato, cosa che peraltro isolava il suo mandato iniziale, quindi anche questa è una cosa che, come dire, non era stata prevista all'inizio dei trattati europei, noi avremmo molto seriamente affrontato il pericolo che i mercati avrebbero chiesto un prezzo talmente alto da spingere il nostro paese anche verso il default, nonostante sia un paese ricco, nonostante non sia certo un paese per caratteristiche strutturali simili alla Grecia, che è un paese molto più debole, molto più fragile. Quindi, se da un lato è indubbio che quello è stato un atto che ha umiliato la sensibilità democratica di qualunque italiano, allo stesso tempo è stato, come dire, l'Italia stessa che si è posta nella condizione di sottoporsi a quel diktat. Dunque, mi scusi. Quindi, sono due opinioni. Mi scusi, lei dice che. Loro contrastanti, perché se da un lato era inevitabile che se la Banca Centrale Europea doveva fare delle cose straordinarie, cioè in maniera straordinaria comprare il debito italiano per evitare che esso diventasse troppo costoso per noi, a quel punto era evidente che chiunque deve prestare dei soldi può porsi delle condizioni. E così ha fatto la Banca Centrale Europea, in quel modo sicuramente fuori, come dire, dai canoni standard delle diplomazie e dei metodi di funzionamento, ma noi non siamo in una situazione standard, siamo in una situazione straordinaria, e in una situazione straordinaria, come sempre è accaduto nella storia, non solo europea, ma nella storia del mondo, in situazioni straordinarie vengono cose nuove che non sono mai avvenute prima, tra cui questa. Ciò che lascia l'amaro in bocca è che la situazione in cui siamo è molto evidente che è al contrario di quanto sostenuto dal governo e continuano a sostenerlo molti esponenti della maggioranza, è, come dire, noi dobbiamo rimproverare soprattutto noi stessi per la situazione in cui stiamo. Ad inizio settembre il rappresentante tedesco del comitato esecutivo del consiglio direttivo della BCE, Stark, se n'è andato battendo la porta, non condividendo la politica dell'Euro Tower degli ultimi mesi, cioè, come lei ha citato, comprare ingenti quantità di buoni del tesoro italiani e spagnoli. Che cosa vuol dire questo? Che la Banca Centrale Europea ha sostituito la sua ortodossia teutonica che l'ha caratterizzata in questi ultimi anni con una deriva solidarista? Il punto non è così, dire. Sicuramente la Banca Centrale Europea ha modificato una parte rilevante della sua ideologia di partenza. È anche evidente che in quelle dimissioni traspare, sia pure in controluce, perché tutto è stato fatto senza che uscisse fuori tutte le motivazioni che lei citava sono delle speculazioni che si possono fare, formalmente. Il rappresentante tedesco si è dimesso per ragioni personali, sì, certo. Nessuna polemica è mai trasparita. Però quello che sembra evidente è che ci sia una discrasia, nel momento in cui il governo tedesco il Parlamento tedesco vota a larghissima maggioranza un piano di salvataggio che va in direzione dell'impegno finanziario tedesco a risolvere o a mettere argine la crisi di questi mesi, chiaramente quel dirigente della Banca Centrale era in disaccordo e quindi si è dovuto dimettere, Il punto è che nel momento in cui una crisi assolutamente straordinaria porta la Banca Centrale a misure che esulano e a comportamenti che esulano la sua missione iniziale, chi sia troppo fedele all'ideologia originale si sente in difficoltà, pur non avendo una soluzione alternativa, nel senso che la soluzione alternativa di non comprare debiti pubblici dei paesi che hanno crisi di liquidità come l'Italia, che sono una crisi di liquidità, non è una crisi di insolvenza, e nello stesso momento i governi europei si impegnano a garantire per i paesi insolventi come la Grecia, apre uno scenario rispetto al quale nessuno ha un nuovo paradigma da offrire. E il problema è quello che i governi europei in questo momento, anziché, come da molte parti auspicato, anziché lanciarsi in disegnare un nuovo equilibrio per il futuro, stanno in ogni fase approntando situazioni tampone che si rivelano insufficienti. Questo mi sembra sia il problema più importante in questo momento, che ogni soluzione, compresa l'ultima, non prefigura una nuova situazione di stabilità, ma prefigura una situazione nella quale si spera che ogni volta sia la misura finale e sufficiente, e invece ogni volta pare che non lo sia mai, poi c'è sempre un nuovo problema. Chiederle un paragone tra la situazione in Italia e in Spagna. Anche la Spagna è un paese in crisi, però il rating sovrano spagnolo è più alto di quello italiano, e questa differenza tra Italia e Spagna si riflette anche nel differenziale tra i tassi sui titoli italiani e quelli tedeschi, che è più ampio di quello tra quelli spagnoli e quelli tedeschi. Che cosa penalizza così tanto l'Italia, per esempio, paragonata alla Spagna? L'Italia ha un debito pubblico generale più alto e l'Italia ha fatto delle manovre di austerity più in ritardo, quindi rispetto e meno convincenti in generale di quelle fatte dalla Spagna. Quindi rispetto alla gestione della crisi di breve periodo, ossia i fatti di questi ultimi mesi, la Spagna sembra messa meglio. Da un punto di vista invece più generale, più importante, più di fondo, cioè le prospettive di crescita, l'Italia ha alcune cose in comune con la Spagna, tra cui un problema drammatico di squilibrio intergenerazionale. tutte, diciamo, le discussioni, le esperienze personali che gli italiani sono molto comuni, molto note, di due o tre generazioni ormai, tutte le persone entrate nel mercato del lavoro dopo il 95, che vivono esperienze lavorative precarie, che hanno dei grandi problemi di reddito, diciamo, che iniziano a pesare anche sulle generazioni più anziane, che continuano appunto a sopportare i figli a età molto avanzate, 30-35 anni, si riscontra in maniera molto simile in Spagna. E quindi sono, diciamo, entrambi i paesi alle prese con un problema di organizzazione del funzionamento della propria economia e del proprio capitalismo. La Spagna rispetto all'Italia ha una tua in più, ossia alcune grandi imprese multinazionali, tra cui alcune banche che hanno una grande forza economica e che possono rappresentare un motore di crescita, che l'Italia non ha più, perché l'Italia sostanzialmente non ha più grandi imprese, a parte la Fiat e alcune utilities come le Poste, che con un paio di banche, diciamo, non ci sono più grandi aziende in Italia. L'Italia continua ad avere un capitale umano, un capitale fisico molto superiore a quello della Spagna. Quindi sono dei paesi, diciamo, che hanno dei problemi diversi e alcune similitudini. Siamo ormai arrivati quasi in chiusura e avrei un'ultima battuta da farle. Oggi, leggendo un forum, leggevo che un cittadino italiano commentava così la missiva segreta che citavamo prima. L'unica fortuna che l'Italia abbia in questo momento è quella di appartenere alla zona dell'euro. Immagino che lei sia d'accordo con questa affermazione e che cosa può rispondere o aggiungere? L'unica fortuna, in realtà, diciamo, questa ormai per noi non è né una fortuna né una sfortuna, è una condizione esistenziale, una condizione esistenziale che riguarda non solo noi ma tutti i paesi europei. Il nostro destino come nazione nei momenti di crisi come questo è legato a doppio filo con tutti gli altri paesi europei, nel senso che se la crisi fosse fatale per l'Italia non sarebbe fatale solo per l'Italia, sarebbe fatale per tutto il mondo, perché sarebbe fatale per le banche tedesche e le banche inglesi, di conseguenza sarebbe fatale per l'economia mondiale, non solo per l'economia italiana. Quindi nei momenti di crisi, come dire, siamo tutti un'unica famiglia. Però i momenti di crisi passano e al di fuori dei momenti di crisi, invece, il destino del paese è tutto nelle mani dell'Italia, perché quello che questa crisi ha insegnato, che sta insegnando, è che i paesi che hanno maggiori problemi in questo momento, soprattutto la Grecia, l'Italia e il Portogallo, in maniera molto diversa da Spagna e l'Irlanda, come dicevo prima, soffrono della crisi di più degli altri per ragioni endogene, cioè per ragioni proprie. Cioè, se l'Italia avesse fatto una politica economica diversa e non avesse passato gli ultimi 15 anni a crescita zero mantenendo il debito pubblico di oltre il 100%, noi oggi non saremmo in questa condizione. Cioè, se gli ultimi tre governi, di centrodestra, centrosinistra e centrodestra, avessero fatto una politica di riduzione del debito sistematica, una politica più coerente per crescere e per liberare le grandi creatività del nostro paese che esistono e sono presenti, per dare modo ai nostri capitali di essere investiti produttivamente anziché andare a alimentare la crescita del mercato immobiliare, per esempio, e fossimo appunto in questo mondo immaginario che però, insomma, non è un mondo, diciamo, irrealistico, non stiamo parlando di rivoluzioni mancate, stiamo parlando di politiche coerenti mancate. Quindi fossimo oggi con un debito pubblico magari l'80%, sempre alto, ma insomma non esagerato, oggi nessuno discuterebbe della crescita di spread. Quindi, come dire, la fortuna dell'Italia non c'è in questo momento, noi abbiamo una condizione esistenziale tale che siamo l'unica famiglia con gli altri paesi nei momenti di crisi, ma i prossimi 20 anni, cioè se saranno 20 anni di continuo declino, saranno 20 anni in cui l'Italia potrà avere un ruolo più positivo nella economia e nella cultura, diciamo, europea, dipende solo da noi. L'Unione Europea, secondo lei, ne uscirà rafforzata dalla crisi? Questa è una bella domanda, perché potrebbe uscirne, diciamo, devastata o rafforzata, quindi speriamo di essere rafforzata. Grazie mille per il suo intervento. Annalisa, hai altre domande dallo studio? No, altre domande, perché purtroppo siamo in chiusura. Vorrei ringraziare anch'io il professor Simoni per il suo interessante contributo. Grazie professore, buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci. Buon lavoro, arrivederci. Buona serata. E dunque, Alessandra, a questo punto non ci resta che salutare i nostri radioascoltatori e dare l'appuntamento alla prossima trasmissione. Buona serata a tutti. A risentirci.